Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Un saluto a Carlo Garofolini, presidente dell'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Parliamo di casa questa volta nell'argomento di oggi, perché ci sono delle possibilità, delle alternative, diciamo, a chi vuole comprare casa ma ovviamente ha delle difficoltà oggettive nel farsi prestare i soldi dalle banche per avere un mutuo. Certo, sappiamo che la casa, il settore immobiliare in questo momento particolare è in forte sofferenza, ma sappiamo che questo dipende anche molto dalla difficoltà con cui soprattutto le giovani coppie non riescono più ad accedere ai mutui e pertanto, ecco, i dati che ormai sono sotto gli occhi di tutti stanno assumendo delle dimensioni sempre più rilevanti, e tra tutto questo fenomeno spicca l'indagine proprio uscita pochi giorni fa, con cui oggi c'è una nuova tendenza per acquistarla, che sinceramente anche a detta nostra sembra quella più interessante, che possa permettere anche appunto alle coppie di poter rivolgere il proprio interesse verso l'acquisto di una casa, bypassando un po' quelle che sono le difficoltà che le banche possono fare alla stipula di un contratto di mutuo ipotecario. Ecco, in cosa consiste questo sistema? Praticamente si tratta di comprare la casa pagando l'affitto. È un fenomeno che sta crescendo in questi ultimi mesi, e si tratta praticamente di comprare una casa con una formula di affitto e un riscatto finale, cioè permette a chi non ha i mezzi di comprare in un'unica sola tranche, quella di poter pagare un affitto e che alla fine non è altro che un importo rateizzato del valore dell'immobile. Quindi alla fine c'è un riscatto finale e c'è una rateizzazione che diventa quindi accessibile, come può essere il contratto di un mutuo, ma soprattutto può bypassare tutte quelle che sono quelle clausole, quelle difficoltà che le giovani coppie, molte volte anche un po' per il lavoro che svolgono o per la precarietà in cui si trovano, non sono in grado di poter avere per le banche, ma che sono sufficienti per poter invece pagarsi un affitto. Questa cosa qui sta prendendo piede forse perché i venditori di immobili sono bloccati con la vendita delle case e le stanno tentando un po' tutte. Beh, guarda, questo fenomeno è un fenomeno che si sta assumendo una certa rilevanza soprattutto in Lombardia. Anche qua in Veneto si comincia ad adottare un po' questa formula. È vero che i venditori le tentano tutte, è anche vero che ricordiamo agli ascoltatori che all'Adico abbiamo uno sportello denominato proprio Sfratto e Condominio, che si occupa di tutte le problematiche e aiuta anche il consumatore a stipulare o a verificare quelle che sono queste condizioni prima di sottoscriverle. Però è anche vero che si tratta alla fine di poter pagare un bene a rate e magari verificando così ma delle condizioni che, per carità, non è che siano più vantaggiose, ma magari possono semplificare un po' la vita rispetto a quelle che magari la banca richiedono, perché pensiamo non solo a quelle che sono le condizioni che ciascuno deve soddisfare, ma poi le banche vogliono i garanti, vogliono tutta quelle serie di clausole accessorie che rischiano veramente anche di coinvolgere più soggetti e mettere in difficoltà un po' più persone. Quindi secondo noi una soluzione del genere potrebbe essere molto più interessante e condivisibile rispetto a quelle che potrebbero essere delle formule tradizionali, che certamente comunque sono delle formule che si sono adattate anche in questo periodo di crisi, ma che si possono trovare anche delle soluzioni molto interessanti. Ecco, volevo chiederti proprio a livello pratico, il contratto è un contratto d'affitto vero e proprio, quindi che andrebbe rinnovato dopo 5 o 7 anni, oppure in questo caso non c'è il rinnovo? No, dobbiamo immaginarlo come una sorta di leasing di cui una persona praticamente paga un bene a rate, quindi di fatto diventa proprio un vero e proprio contratto, diciamo, finanziario più che un contratto di affitto. Certo è che nel caso che una persona non dovesse arrivare a soddisfare questo contratto, si trova ad aver pagato per un tot di anni un affitto e aver perso l'occasione di riscattare poi la differenza e quindi aver pagato il vano delle rate. Certo è che per chi paga in affitto è un po' la stessa formula, qua diciamo che c'è più una speranza di poterlo acquistare rispetto a quello che prima una persona non ha, valutando comunque il fatto che magari si può perdere un po' di inflessibilità, soprattutto nel momento in cui vengono richieste delle prestazioni lavorative che non, rispetto a una volta non individuano più un luogo fisso, ma bisogna anche un po' adattarsi a dove queste vengono proposte, quindi sai, bisogna anche valutare tante cose, però focalizzandoci su quello che è l'acquisto di un immobile, questo sicuramente permette di dare una possibilità in più rispetto a quella che oggi sicuramente non è una, non hanno i giovani di poter realizzare certi sogni come avevamo noi magari 20-30 anni fa. Ecco, questo tipo di contratto lo si può fare, penso, sulle case nuove, non su quelle vendute dai privati. Ma in realtà si può fare in tutte le sue formule. L'importante è che sia un contratto regolare, registrato e soprattutto, ecco, controfirmato e visionato da parte di tutti i soggetti nel rispetto di quelle che sono le condizioni e le clausole che lo salvaguardino. Certo è che chiunque può comprare un immobile usato come chiunque può comprare un contratto nuovo. L'unica cosa è purtroppo fare cose fatte bene, perché molte volte capitano che anche le idee più interessanti che potrebbero dare anche uno stimolo e una speranza a chi magari questo sogno lo sta inseguendo da tanti anni non si traducono come al solito su quelle che sono delle formule per fregare sempre, ma noi non vogliamo pensare a questo, vogliamo più pensare alla novità e in questo senso ci piace che tra virgolette promuoverla. Ecco, e proprio per questo ricordiamo che l'Adico, l'hai già detto tu, ha uno sportello dedicato, e quindi se avete dubbi, domande, volete in qualche modo capire qualcosa di più o quale potrebbe essere la strada più adatta a voi nell'acquisto della vostra casa, rivolgetevi all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Io ringrazio il presidente Carlo Garofolini, l'appuntamento con te, Carlo, è rinnovato fra due giorni. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.